peggio. Stefanuccio, oddio, cos'è? Cosa succede? Arte contemporanea. Ah, è giusto così. È giustissimo, oggi, Stefano. Oggi abbiamo la 287esima puntata di Coxo Spaziale, parte col jingle giusto. È una meraviglia. E questo perché? Perché tu sei in regia. Hai visto? Le cose stanno al loro posto. Le cose stanno così. Io in realtà non sono pronto per niente per essere in regia oggi, ma va bene lo stesso. E io ho una domanda per i nostri ascoltatori. Ecco. 333 180 94 94. Ma secondo voi avete mai subito casi di mobbing al contrario? Mobbing al contrario, io ho già la risposta di un nostro ascoltatore che però l'ha spedita alle 17.06 e nessuno l'ha letta finora. Per nel cui... tempo, nel esatto, tempo. Siamo coxicamente indietro nel tempo, sentiamola subito, è un vocale. Buon pomeriggio, che tra noi c'è altro, si era capito lo sai da tanto tempo, sei la musa ispiratrice, sei le note del mio cuore, fammi entrare. Fatti dare un abbraccio e un bacio sempre dentro di te, se vorrai fatti baciare il cuore, amore. Buon pomeriggio da Marco Roma. Marco Roma, sembra di essere a Punto Radio. È tipo, un caso, no? Di mobbing? Esatto. Per i nostri ascoltatori? È un caso di disadattamento radiofonico. No, ma a parte i casi particolari, no, comunque grazie Marco Roma che ci hai fatto partire Coxo Spaziale in quarta. Questa, siamo alla 287esima puntata. Io continuo a spostarmi dal microfono. Sì, quella, 287esima. 87esima, abbiamo detto. E come ha detto tuo figlio 8 anni fa, oggi si parla di arte contemporanea. Esatto. E perché? Perché abbiamo un graditissimo ritorno. Yeah. Abbiamo qui di nuovo con noi, a salita sul coxo, niente proprio di meno che adiacenze. Yeah. Nella figura di Daniela Tozzi. Yeah. Sono tornata, non vedevo l'ora, mi piace un sacco venire qua. Ma che dolce, la invitiamo più spesso, le mettiamo un po' di W anche a lei. Invitiamola tutti i lunedì, se no vi mando tutti i lunedì un messaggio vocale in cui canti alla romana. Faccio cantare qualcun altro. Anche Raio ci dovrebbe spedire un vocale ogni tanto. Sì. E poi abbiamo Daniela, a sua volta ha invitato l'artista la cui personale è in mostra ad adiacenza in questo periodo. Sì. Abbiamo l'onore di introdurre per la prima volta sul coxo Giulio Zanet. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Eh beh, un po' meno enfasi perché è la prima volta, sai, sì, capisci? Scusate, sono un po' imbarazzato, adesso prendo. E poi a sua volta Giulio Zanet ha incontrato per la strada e ha invitato, esatto, una sua collega che si chiama Esther Grossi. Sì, no, io in realtà ogni novembre sono qui. Infatti, sì, no, ormai è un'occasione annuale. Sì. Allora no, scusami, più applausi perché è un ritorno. Esatto. In realtà è Pasquini che a novembre decide di invitarmi. Che è il mese della Grossi. Sì, esatto. Ottimo, ottimo, sono contenta anche perché novembre è il mio mese di compleanno, quindi celebrarlo in tua presenza è bellissimo. E così. E poi abbiamo anche in questa 287esima puntata degli ospiti silenti. Degli ospiti silenti. Applaudiamo anche loro. Ecco, ok. Beh, a questo punto direi che a questo punto ci vuole si parla di arte contemporanea. Esatto. Cioè e dunque non pittori. Può mancare. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Anzi, adesso Alto anche un po' questo, ci sta, eh? Ma non vogliamo fare un pranino, andiamo posta. Subito a chiacchierare? Andiamo subito a chiacchierare, non so di che cosa chiacchieriamo. Lo so io. Sai tutto tu. No, perché sai che adiacenze ha la caratteristica di essere uno spazio che si lascia riarticolare dalle presenze che lo abitano, dico bene, sì, Daniela? Sì, me l'avete riarticolato entrambi, tra l'altro, in momenti diversi, però tutti e due. Tutti quanti? No, Esther, tu no. Neanche l'altro ospite silente? No, neanche l'altro ospite. Spite silente. Cosa, facciamo qualcosa? Ah, è bello quello spazio lì, eh? Cioè un bel tipo stile open space al primo piano, al primo piano e al piano terra. La grotta. La grotta. D'estate si sta da Dio. D'inverno un po' meno. Dici? E va bene, quindi questo spazio che si lascia agire, si trasforma nel pieno centro di Bologna, una bellissima sede vicino a due passi da Piazza Maggiore. Vogliamo riguardare l'indirizzo? Vicolo Spirito Santo 1B. Spirito Santo, spirito dell'arte, sì, presenza anima. E lo spazio è stato creato da te, da me e da Amerigo Mariotti, che non viene stasera perché è di ritorno da New York, c'ho il jet lag. Ah, poverino. Da Londra, però va bene anche New York. Il jet lag gli viene lo stesso. No, lo salutiamo tanto con il suo mal di testa. Mi dispiace molto che tu non sia potuto venire. Però alla fine saremo stati anche un po' in troppi, perché cioè alla fine sì, siamo stretti, già così non ci basta le cuffie. Non parla mai, si vende sempre col Pasquini in regia. Oh, che carino. Sì, è vero. Infatti, gli piace sta cosa della braga in regia. No, sì, l'abbiamo aperto io e lui 10 anni fa e il tempo è volato, quasi, mi sembra ieri. Quasi 10 anni. E tu sei sempre uguale. Magari. Sì. Beh, grazie Fedra, io devo venire più spesso qua. Come dice, Stefano, sei com'è che lo dici tu? Un gran pezzo di gnocca? Ma magari. No, no, la fortuna è che siamo in radio. Gli ospiti silenti alzano le braccia al cielo e inneggiano. Sì, è vero. Vabbè, fa lo stesso. E l'artista che questa volta, adesso ci dirai, sì, da quando e fino a quando, comunque fino a mercoledì. Ma comunque l'abbiamo menzionato più volte. Sì, ma aspetta, fammi finire con la frase. Mm-hmm. Non sei attenta, non ascolti i podcast. Giulio su... Zanet, che è esatto, qua di fianco a me, anzi di fianco all'ospite silente, e ha fatto... non so neanche come dire, ha messo in mostra tutto il suo operato, perché poi noi siamo pazzi, quindi ci facciamo travolgere, e anche se sono travolgenti gli artisti, più noi siamo contenti. E la mostra si intitola La vita è un passatempo e purtroppo finisce mercoledì con un talk. Però prima del talk, caro Zanetto, tocca a te, mi avete dispiace, ancora due giorni per vederla, te devi stimidire, accorrete adesso. due no, ultimi giorni va bene, benissimo, com'è? Sì, allora innanzitutto si parla di pittura. Pittura. Io sono pittore, ma secondo me sì, sempre di pittura. Tu ti senti pittore? Sì. Sì? Sì, è un pittore. Sono un pessimo però pittore. Però è anche un artista contemporaneo. Beh, certo. Come tutti i pittori che non sono ancora morti. Perché dici così? Sì, no, così mi sembra giusto specificare. Cioè, un forte, un animoso sì, dialogo rispetto a questi tipi di etichette, quindi sembra sì, giusto. Sì. E in questa occasione, quindi, ho agito da pittore facendo un'installazione. Quindi mi sono intrattenuto negli spazi. Contemporanea. Sempre contemporaneo, assolutamente. Più contemporaneo possibile. Hai sposto la tua testa? Sì, sì, mi sono intrattenuto negli spazi di adiacenze e ho dipinto la stanza invece che con. Con i quadri. Ho usato i quadri. Allora, mi diceva Daniela, prima. Amo di colori e pennelli. Che tutte le pareti di adiacenze, che è grande come spazio. Però della parte espositiva, aspetta, non proprio. Sono completamente finestre incluse, tappezzate di tuoi quadri. Esattamente. Ho dipinto la stanza. Con i quadri, con la pittura. È così che si fa. Ma veramente sono proprio tutti o ci hai lasciato qualcosina a casa? No, ho lasciato qualcosina a casa, no, chiaro. Ne aveva ancora di più, se volete fare una seconda. Sono di quei pittori che non vendono i quadri, quindi nel mio studio c'è, è pieno di quadri. Secondo me tappezzava tutta via d'Arveglio. Esatto, possiamo arrivava fin quasi in sala borsa. Anche Stefano sarebbe pittore possiamo a tratti. Tutto. Sì, no, probabilmente io da casa mia potevo arrivare fino a via d'Arveglio. Dai, che bello! E facevamo una piattaforma, una piattaforma unica. E non abiti in via d'Arveglio? No, non abito. Okay. No. E questa installazione Giulio Zanet sì. L'ha intitolata La vita è un passatempo. Sì. Che bel titolo. Vero. Ce ne parli? Anche secondo me è un bellissimo titolo. Ci riflettevo da tempo. È un'asserzione che credo inconfutabile e mi è piaciuto usarla come indicazione. Di poetica. Sì. Dai, mi piace. Grazie. La poetica. Mi dice Giffo che c'è Mauro De Ciuceis da Gerry Scotti, per cui non so se volete spegnere la radio e accendere la televisione. fate un po' sì. Voi. Ma Gerry Scotti fa ancora televisione? Ma non lo so. Te la ricordi sta canzone? Pedra? Ho fame. Gli scherzucci. Cosa avete detto qualcosa di molto compromettente, chissà se l'hai preso. Sicuramente. Dice Amerigo: attenzione a quello che dite perché vi ascolto. Attenzione. Ma sono stata buona con te, perché mi devi dire queste oddio, cose? Oddio, è arrivato un altro audio da quello di prima. Ah, che bello, magari lo aspettiamo per la sigla di chiusura? Addirittura come sigla, ma no, ascoltiamolo subito. No. Questo è. Dai, che curiosità, quanto dura? 3 minuti? Ma no, dura 24 secondi. Aspetta che abbassi i Rolling Stones, te li ricordavi i Rolling Stones? Assolutamente no, però forse Esther sì. Sì, io da cinefila citavo una scena di A Bigger Splash di Guadagnino, dove c'è questo pezzo. Ah, ok. Comunque era un falso allarme, non è arrivato niente. 24 secondi di niente dal nostro ascoltatore preferito da Roma. Esatto. Che ci ascolta 2 ore prima del programma. Fantastico. Ok, ritorniamo a noi, quindi. Ritorniamo alla nostra passerella che va da via d'Arveglio. E io farei questa passerella di ospiti che sono anche un po' il passaparola del, quindi abbiamo Daniela Tozzi che ha consegnato adiacenze a Giulio Zanet per allestire La vita è un passatempo, e abbiamo poi Esther Grossi, pittrice, che questa mostra l'ha vista e quindi ci può dire qualche cosa, quello che non ci ha detto Giulio, che è stato un pochino sulle sue, insomma. Beh, perché Giulio comunque, lo posso dire, è conosciuto per essere il Lord. Gli amici lo chiamano il Lord. Alcuni scusami amici, se ho confessato. Non lo sapevo neanche io. Tu non sapevi neanche tu. No, potevo scrivere la vita è un passatempo. Non era una cosa da rendere pubblica. Il Lord. Meraviglioso. Beh, sai, io sono sempre discreta. Io invece avrei dato del loro, mi sarei un po' prostrata per farti sentire a tuo agio. Un coxo, non lo so. Il regale. Non c'è bisogno. Grazie. La ringrazio. Comunque, tornando a noi. Sì, allora, io ho visto la mostra, ma soprattutto ho camminato dentro la mostra. Parlaci. Perché essendo comunque un'installazione ambientale, vedere, diciamo, questa mostra di Giulio vuol dire comunque entrare all'interno della sua testa. Non stavo scherzando prima quando ho detto questa cosa. Perché comunque... Sì, poi è vero. Sì, è uno spazio talmente pieno. Io chiaramente ti riconosco, conoscendo il tuo lavoro, essendo tua amica e avendo lavorato con te, cioè riconosco il tuo linguaggio e anche questa tua modalità espressiva dello quasi sputare immagini, no? Cioè, vomitare. Vomitare, esatto. Sì, comunque avevo bisogno di un termine. Però così dicendo non è che... Fate venire tutta questa voglia di venire. Beh, no, di venire a finissage a tutti quelli che magari non hanno ancora. Sinceramente, no, sinceramente a me muove della curiosità, perché sì, immagino ma che questo tu sei strana, installa... lo sappiamo. No, ma ha parlato di camminare in uno spazio che mi fa pensare a uno spazio che si lascia agire, poi ha parlato di questa sensazione forte che comunica, quindi è un qualcosa che effettivamente avrà sarà incisivo. E quindi mi chiedo, ma per esatto, cioè volevano per essere determinati come saranno stati messi questi quadri alle pareti, porca vacca. No, ma poi soprattutto non si tratta solo di quadri, perché ci sono anche assemblaggi di tessuti, vari materiali. A me piace come lo stai descrivendo, grazie Esther. Continua così, stiamo andando alla grande. No, già, brava Esther, già. Grazie Giulio, continua tu perché non vorrei. Andava benissimo. Okay. Stavi andando benissimo, continua. Quindi si sono reati tessuti. Esatto, cioè è fondamentale comunque il fatto che comunque Giulio non lavori soltanto su tela, ma su diversi materiali sui quali comunque il colore poi rende anche in modo differente. E difatti ci sono anche diversi materiali molto kitsch. Residui di feste. Sì, ho usato un po' di tutto. Tessuti, moquette, PVC, carte. Ma ci sono anche cornici? No. No, la cornice è lo spazio. In realtà non si vede neanche quello. Non c'è la cornice. Il cervello, una testa non ha cornice, volendo. Non c'è nulla di definito. No. Beh, lo spazio definisce. Mi sono andata a imbucare in un argomento difficoltosissimo. Però i neuroni vanno. E vengono. E vengono. Formano ma soprattutto sinattiche. Si bruciano. Ma io ho delle difficoltà con le cornici, perché le cornici delimitano e lì c'era già la stanza che delimitava, era più che sufficiente, no? Sì, mi ci hai messo anche la tenda sulla porta, quindi lei è ancora delimitata in realtà di più, però nella tua continuità cerebrale all'interno. Sì, è proprio un entrare, un'immersione, no? È una mostra neuronale, rizomatica. Io vestita tutta di nero è la mostra più colorata della storia di adiacenze. Ah, davvero? Sì, perché la vita è un passatempo, quindi deve essere un po' giocosa secondo me. E credo anche secondo te, visto. Ma, sì, beh, secondo me sì, assolutamente. Però, e quindi è una delle però mostre non è detto. Più colorate. Si può anche passare tutta in nero la vita. Io la passo. No, io perché? La passo colorato, però non è detto. Dicessi beige. È un colore che fa molto Lord. No, non dovevo dirla questa cosa. E in questo talk di che cosa parleremo? Io lo so, però lo dobbiamo fare, sì. Ha un titolo meraviglioso che è morbido e violento. Dialoghi tra pittura e poesia. Ecco, sottotitolo esplicativo, tipo leggere le istruzioni. Sì. Comunque, siccome si tratta di un argomento bello intenso, io mi ci concentrerei dedicatamente nella prossima slot della trasmissione. E dunque in che cosa ci concentriamo nella prima slot della trasmissione? Finiamo l'argomentazione su... proviamo a scavare ancora un po' di più su questa mostra, sul processo, su come potrebbe essere. Scaviamo. Scaviamo. Vorresti parlare del piano interrato? No. C'è il piano interrato? Sì, c'è anche un piano interrato, però appunto è una sorpresa. Se la raccontiamo non è più una sorpresa. Vabbè, ma ormai non è più tanto una sorpresa, perché la mostra sta per finire. Sì, in effetti nel piano interrato. Quando è cominciata? Oddio. È iniziata a metà ottobre. Adesso se mi chiedi... Se mi chiedi il giorno non me lo ricordo, però 11 ottobre. Basta andare su coxospaziale.blogspot.com e trovate la menzione della mostra. No, sì, il giorno prima della giornata del contemporaneo, quindi l'11 ottobre, ha ragione lei. Venerdì. Grande ore 18:30. Iniziò l'avventura. No, è iniziata una settimana prima durante l'allestimento. Anzi, è iniziato un anno prima con Amerigo, che ci ascolta, ciao caro. con Amerigo che chiede a Giulio Zanet di fare una mostra e di osare, come al solito, perché o Amerigo sogna o osa, o vuole che sognino tutti osando, non ho capito. Oppure è jet laggato a casa. Sì, okay. Da Londra. Ma con la Brexit è più difficile tornare. Anche andare, secondo me. Anche secondo me, infatti. Poi uno come lui, mi meraviglio che non l'abbiano lasciato così a Dover. Mamma mia, non ci avevo pensato. Che ansia, spero che non ci torni più. Comunque, no. Amerigo, non devi più tornare in Inghilterra, ok? No. Ma si può sapere cosa c'è andato a fare, oppure troppo privato? Sempre progetti adiacenti. Sì, sempre. Amerigo e adiacenze sono la stessa cosa, quindi lui progetta sempre. Poi questa musichina di sottofondo, vero? È perfetta. È perfetta per Amerigo. Sì, comunque lui chiese al caro Giulio Zanet di fare un progetto e all'inizio noi non avevamo capito. Secondo me non avete capito finché andando. Non l'ho montato. Quanto avrebbe usato e quanto avrebbe poi fatto sognare ulteriormente. Perché ha detto, vabbè, chiudo le finestre. E noi abbiamo detto, ma le chiudono tutti, chi se ne frega. Ma non tappezzo pure il pavimento e il soffitto. Quello è venuto dopo. È venuto man mano. Però sotto sei stato più discreto, possiamo dire questo. Sì. È stato più discreto. Sotto non c'è quasi niente. Se venire colpito da un lampo di luce, sì. Comunque tu, secondo voi è essere discreti, capito? Che ti rimangono i colori di sto quadro. No, meraviglioso, davvero. Fissi nella retina per un quarto tutti d'ora. Tutti i colori di sopra ti finiscono nell'occhio con sta flashata. Grandioso. È una chiave di lettura molto interessante. Sì. Potrei rivendermela per un prossimo testo o per una prossima puntata di Coxo Spaziale. Sì. Sentite voi, qui io devo mettere le pubblicità, per cui io fremevo, Pasquini, guardavo l'orologio e fremevo, lo sapevi. Adesso ecco, dillo ancora che ti abbasso intanto, ecco, così, e poi le faccio anche partire, voilà. Emilio, ci porti l'Ambrose Fritz? www.radiocittafugico.it. Coxo spaziale. Ma Stefanuccio, questi nuovi jingle non me li hai mica condivisi, Ah no? No. Oh, mi dispiace. Succede. Succede che a volte ritornano. Che ci vuole una mano in più. Perché a un certo punto succede che l'angolo della menzione. Anche il 287esimo Coxo c'ha le menzioni e ritornano forse per la prima volta nella stagione, no dai, la seconda, le telefoniche. Le telefoniche. Va bene, allora io dovrei leggere il comunicato che dietro. Vuoi... Allora, venerdì 22, ore 21, performance l'ABC, il corpo prima a Villa Mazzacorati. Questa performance inaugura la programmazione di novembre della terza edizione di Generazioni. Il progetto a cura di Associazione Selene Centro Studi Ecodanza nasce per generare azioni e pensieri intorno alla questione del genere e degli stereotipi ad esso connessi, utilizzando strumenti di natura culturale e creativa. Tre giorni di performance, spettacoli, laboratori di danza, fotografia, talk, incontri. Per saperne di più, da domani su www.coxospaziale.blog. C'è il link per bla bla bla. Siamo un po' così. Ecco. E a questo punto io ho il super piacere di introdurre in questa trasmissione il nostro primo ospite telefonico, che è Martina Del Prete, che insieme ad altre danzatrici ha creato questa scrittura per il corpo, questa scrittura scenica, la possiamo chiamare? No, per il corpo. Come la chiamiamo? Partitura? Performance? Possiamo, ciao Martina, possiamo. Benvenuta! Ciao a tutti, ciao Fedra, ciao! Ciao! Buonasera a tutti. Allora, raccontaci un po', perché innanzitutto magari potremmo citare le altre performance con cui hai creato questa cosa, e poi magari mi dici qualcosa sul nome, su come nasce. Certo, anche qualche parolina la rubo proprio velocissimamente per il progetto più in generale che ti accoglie, che stiamo organizzando da diversi anni, quindi ho piacere comunque di portare due o tre paroline, certo, di quello anche. Che è Generazioni, appunto, come hai già detto, un progetto che stiamo portando avanti con l'Associazione Selene Centro Studi e Ecodanza da diversi anni, che ruota un po' attorno alle questioni e le considerazioni attorno alle differenze, in particolare del genere, ma non solo, anzi si apre a ventaglio tutto ciò che poi è un po', si trova negli spazi marginali, periferici, cercando di mettere risalto, ecco, tutte le visioni che sono un po' oltre a quella dominante. Sì, e quindi anche quest'anno è la cosa che mi incuriosisce, proprio come un tema così, se vogliamo, filosofico o comunque di natura cognitiva possa poi confluire in una performance di danza. Certo, ed è stata una domanda che devo dire anche noi danzatrici ci siamo fatte. Tra l'altro, come dicevi prima, questa performance che sarà presente venerdì sera e sabato sera alle 9 a Villa Mazzacorati, una bellissima villa che ci ospiterà in sala Diana Franceschi. È stato un processo che vuole aprire al dialogo, indipendentemente un po' dai quattro esemplari femminili presenti sulla scena. Saremo io, Martina, appunto, Marta Fedicori, Lucrezia Rossellini e Teresa Secchi, che si incontrano un po' sulla scena, e abbiamo cercato di confrontarci un po' su quelle che sono le differenze tra di noi, cercando di valorizzarle e di metterle poi trasparentemente in mostra, ecco, attraverso il nostro corpo, attraverso una serie di scene che si susseguono in maniera piuttosto o non troppo fluida, ecco, tra incomprensioni ed incontri. E questo tipo di descrizione scusate, e di costruzione dà anche un po' la cifra di quello che è il tema di trattare il tema del genere, che è stato trattato, certo, e ritrattato con una accortezza che è quella che contraddistingue i lavori, appunto, che realizzate con il Centro Studi Danza Ecodanza. Sì, il corpo lo viviamo molto come corpo mondo, ecco, pensiamo che sia proprio il luogo in cui avvengono tutti questi pensieri, queste riflessioni, e la modalità in cui entriamo in relazione con i vari temi è proprio, Martina, quella creativa. Ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi e per aver arricchito la nostra puntata con questo contributo, e ci vediamo sicuramente venerdì, sabato e domenica. Sì, tre giornate piene, belle e da condividere. E naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link per sapere tutto quanto. Grazie mille Martina, perfetto, buon lavoro. Grazie a voi ragazzi. E buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao, ciao. E invece sabato, oltre a questa cosa, noi abbiamo... che bello, finalmente, era un sacco che non sentivo il telefono che faceva bip bip bip bip. Dicevo, inaugura Pauline Battista alla Galleria Più, alle 18.30, che presenta appunto la Galleria Più, presenta la prima mostra personale in Italia di Paulin Battista del 1988, una giovanotta artista brasiliana di base a Londra. Siccome non so nient'altro di questa mostra, l'andiamo a vedere e scopriremo. E invece, ancora peggio, vabbè, Paolo Icaro lo conosciamo, peggio nel senso che non ho alcun tipo di notizia di nessun tipo, ma la P420, sempre in via Alto Gardino, Galleria Più invece in via del Porto, se non sbaglio, comunque troverete tutti i link precisi su www.coxospaziale.blogspot.com domani o dopodomani. E dicevo, la P420 inaugura una personale dello scultore Paolo Icaro intitolata Cantiere. E intanto Feda sta tentando di fare l'ennesima telefonata, ma non ci riesce, per cui che cosa facciamo? Oh, sta chiamando. Sta chiamando. Stiamo per chiamare. Stiamo per chiamare. Digli alla Giffo. Abbiamo la Laura Voltolina. No, ancora. Laura, ah, allora, cioè, questa dice ste stronzate, no? Ah, ok. No, niente. Buonasera. Oddio. Laura, come stai? Pensati, sta nell'unico angolo di questo posto dove il cellulare prende. Pensati che sta in collina in Veneto e sta aspettando di entrare per farci questa descrizione di questo evento di cui ha fatto già un'anticipazione la settimana scorsa, che è il suo percorso di ricerca di yoga per la donna. Grazie Laura. Adesso sto cercando la menzione che eccola qui, e infatti sabato 23 alle ore 18 c'è la presentazione gratuita di La Luna nel Pozzo, yoga per la donna a cielo. Lo yoga è donna? La maggior parte dei praticanti e insegnanti di yoga sono donne. I testi su cui si basano i loro studi sono stati scritti considerando esclusivamente il praticante uomo. A partire da queste due considerazioni, Laura Voltolina, senza W, ha creato un percorso di ricerca attivo che fornisce strumenti concreti per praticare yoga a misura di donna. Quindi è una bella occasione, ti chiedo di raccontarcelo un pochino, perché la data è prossima, è sabato prossimo, giusto? Sì. Sì, la data è sabato prossimo. Quello che succederà durante la presentazione gratuita sarà che racconterò un pochino i punti dai quali si parte, che sono questi ma vanno leggermente ampliati, e cominceremo a introdurre degli strumenti per imparare a fidarci della nostra intuizione quando ci troviamo a seguire degli insegnanti, che siano uomini o donne non fa tanta differenza, perché anche le donne insegnanti hanno studiato sui famosi testi preparati per praticanti uomini, e quando ci troviamo a seguire dei seminari non soltanto di yoga, comunque principalmente di yoga, cosa ci fa veramente bene di quelle pratiche in quello preciso momento nostro. Il modo che abbiamo è di accedere alla nostra istruzione, alla nostra saggezza interna, quindi non berci quello che ci viene raccontato supinamente, ma ad avere un po' di ascolto interno e quindi mettere le proposte sotto una luce un po' più critica, un po' più personale. Sì, uno è tra l'altro un percorso di autoascolto che in realtà ci torna utile tutti i giorni. Sì, esatto, nel quotidiano. Abbiamo detto autoascolto o autoaiuto? Autoascolto, scusate. Diventa autoaiuto per forza di cose, però intanto si parte da lì. E quindi Laura, noi ti ringraziamo tanto per essere stata con noi. C'è Giffo che vuole sapere cosa usa per avere quei ricci, la Voltolina. La Voltolina usa un balsamo misto fatto con acqua, metà acqua e metà aceto di mele. Wow, non la sapevo, grazie Giffo, no. I segreti della Voltolina. Buon lavoro, grazie mille e grazie. Ci vediamo sabato. Buon lavoro anche voi. Ciao. Ciao. Ah, che bello, invece lo volevo il tu e me l'hai tolto. Continuiamo con la nostra puntata. Io non ho capito niente di quello che succede, perché come tu ben sai io sono un po' allergico allora alle telefonate cocciche. E vuoi che ti dica cosa succede adesso o quello che succede, che è successo prima nella prima metà della puntata? Dimmi quello che vuoi. Ma io direi, visto che comunque il tempo Cox si costringe sempre verso questo, dopo le menzioni, è tutto un correre. Sì. Ti direi che magari ci potremmo concentrare di nuovo su La vita è un passatempo, che è l'opera. No, in realtà non abbiamo menzionato, no? Abbiamo menzionato la prima menzione che dovevamo fare, era quella di mercoledì e non l'abbiamo menzionata. Faccio uno stacco di nuovo. Cosa succede mercoledì? Allora, abbiamo detto che c'è un talk ad adiacenza. Mercoledì 20 maggio, ore 19:30. I parlatori sono maggio, fantastico. Ho detto io maggio? Ho detto maggio? No, è meravigliosa questa cosa. Dove viene fuori il senso del tempo? È dove vorrei essere adesso, perché non mi sarebbero successe queste cose di mobbing al rovescio, hai capito? E va bene, lasciamo perdere. Scusatemi, sì, no, sono arrivati i messaggi rispetto alla mia domanda. Dopo il direttore poi si arrabbia che siamo autoreferenziali. Invece non dobbiamo essere autoreferenziali, dobbiamo parlare della vita è un passatempo. No, dobbiamo parlare di morbide e morbide? Morbido e violento. Dialoghi tra pittura e poesia, a cura di Amerigo Mariotti, che risalutiamo, cui parteciperanno Giulio Zanet, l'artista ospite ad adiacenze, sì, Tommaso Di Dio e Riccardo Frolloni. Sì. Ho detto tutto bene? Sì, assolutamente. E che chiamiamo Amerigo e gli chiediamo perché ha organizzato questo talk oppure no. ce lo raccontate voi? No, ma Daniela, dimmi, ma Amerigo è più di taggare è più... Esther Grossi in un post e non ce la fa. Non ce la fa, vabbè, ma sai, no, soprattutto non taggare l'Argentina, perché sai che c'è un'altra storia allucinante, ma non ne parlo perché è sconvolgente, perché poi dopo poi ti farò vedere. La mia domanda per Daniela è sì, ma Amerigo è più morbido o è più violento? Lento. Che domanda, Pasquini, grazie. Prego. Oh, signore. Giulio, vuoi rispondere tu? Beh, già il fatto che tu sia, secondo tu sia me è più morbido. È più morbido. E secondo te è essere? Sì. Secondo me è un mix tra i due. È per quello che l'ha chiamata così. No, è autoreferenziale. Sì. In realtà soprattutto autoreferenziale. Dipende dall'incazzatura del Mariotti al momento. Ah, certo. No, non c'è una risposta seria per questa domanda. Poco seria. Anche Giulio è un mix tra i due. Ma Tommaso Di Dio e Riccardo Frolloni, si può sapere chi sono? Cosa e perché sono stati chiamati? Allora, intanto Tommaso Di Dio, che ringraziamo un sacco, perché immagino che stia ascoltando anche lui il Cox Spaziale. Io chiedo scusa per la mia ignoranza, ma non li conosco. No, è un bravissimo poeta che ha scritto anche il testo per la mostra di Giulio Zanet, quindi è stato preso in causa perché è sia morbido che violento. Lui, cioè nel dialogo tra pittura e poesia, e entrambe le cose, quindi chi meglio di lui poteva parlare del dialogo tra le due cose, visto che ha scritto anche dell'altra. E invece Riccardo Frolloni è il direttore del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Wow! Quindi due poeti e un pittore. Lo mettiamo in pasto ai poeti, vediamo cosa succede. Potrebbe è essere pericolosa la faccenda. Violenta. È morbido. Esatto. È fuori morbido. Mi ricordate a che ora è questa? 19:30, mercoledì 20. Oggi 19. Però mi avevo detto 19:30, l'ho scritto qua. Ma soprattutto è maggio, maggio 2020. Alle 19. Mi scusi, signorina Esther Grossi, ma la licenza di Gaff ce l'ho solo io in questa trasmissione. Magari iniziamo alle 19:30 per il ritardo accademico. Forse per quello. È un po' più lungo. Mi ero portata avanti. Dopodiché c'è il finissage che si protrarrà per un po', giusto? Che io arrivo alle 21:45 in stazione, per cui i poeti mi sa che... Per un po' sì, non so bene per quanto, per un po' sì. Vabbè, allora niente. No, noi ti aspettiamo. Vabbè, tanto la mostra l'ho vista, per cui sono giustificato. Anche all'inaugurazione, anche solo all'inaugurazione. Vabbè, però... non è che torni 1500 volte. No, ma infatti. Sì. capiamo. No, in realtà sarei tornato volentieri a riguardare la pittura, che a me piace molto la pittura, perché come dice Elena Meschi, la pittura è bellissima, ma non ci sono riuscito perché il tempo è sempre tiranno, infatti sta per far finire anche questo coxo spaziale, no. Sono senza parole. Ma perché che ora fa dalla tua parte? Ma uno fa i 47, l'altro fa i 47, quello fa i 45. Qua abbiamo un 49 e un 46. Ok, beh, vabbè, più o meno comunque sono i 40, sono i 47, ma non, niente panico, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci, giusto Esther? Sì. No, dai, momento polemico, lo vuoi? Concludi. Allora, perché lo scorso anno c'era il forum dell'arte contemporanea e con Pasquini abbiamo affrontato il tragico tema delle partite IVA. Ecco, l'apertura tragico. Partite IVA per gli artisti. Quest'anno invece vorrei trattare, però aiutami Stefano, non lasciarmi da sola. Non ti lascio da sola. Il triste argomento della ricerca degli studi d'artista nella città di Bologna. No, sei tu che hai troppe effisime. Ma come troppe effisime? No, è disastroso. È disastroso. Io sto cercando uno studio a Bologna da diciamo non proprio da giugno di quest'anno. Almeno da giugno. Posso intervenire in questo? Perché lo stavi cercando già da un paio d'anni fa. E sì. Tant'è vero che abbiamo fatto un bando che abbiamo vinto per vederci assegnata una cantina con VC. Esatto. Fantastico. Che delle quali si pagava un modico affitto e tutte le spese, siccome non c'era il riscaldamento, anche per solo per fare deposito quadri dovevi comunque pagare uno sbanderno di stufette elettriche che poi prendono fuoco sui quadri, scusate. Ecco, questa cioè, è la mia Comunque sì, quindi parliamo del fatto che il comune è totalmente disinteressato alla questione studi d'artista. Io conosco una quantità di artisti che stanno cercando e non riescono a trovare. Io conosco anche dei dipendenti del comune che stanno lavorando su questa cosa e comunque e comunque per ora siamo tutti senza studio. Però ci sono anche quelli che fortunatamente vincono il bando giusto e si trovano questi studi mega galattici e spettacolari che tu sei lì con la lacrimina. Ma in realtà vincono il bando sbagliato, perché non sono bandi per studi bensì per altre cose che poi improvvisamente diventano adibiti a studio. Ma è una questione controversa. Dottoressa sì. Grossi, no, la ringrazio per averla sollevata. No, perché io devo fare sempre la parte dell'artista pragmatica quando sì, vengo infatti. Da sì. Diciamo che sei una spaccamaroni, esatto. Scherzo, naturalmente. Spacca coxoni per cortesia. È sempre un piacere averti qui, e anzi, è sempre un piacere sentire cose. Esatto, sentirti ogni novembre che ti lamenti di qualcosa. Esatto. Vabbè, il tempo, No, infatti, devo dire che oggi sì, anch'io ho avuto poi queste soprattutto tendenze il lamentose. Bar che ci vendeva le birre sotto coxo è chiuso. Cosa mi hai ricordato? No. Sì, facciamo una petizione, altro che studi d'artista, bisogna riaprire le bar qui sotto. Io invece vorrei fare una petizione per far sì che tutti i presidi alla salute per le donne, ma tipo sai quelle cose che usiamo una volta al mese via dicendo, sì, entrassero nel paniere e avessero una riduzione dell'IVA. Qua è una petizione un po' più grossa rispetto al bar qui sotto. Però è quella che ci avevo ultimamente. Io invece vorrei fare una petizione per far uscire dall'ospedale Riccardo Lolli che comincia a sentirsi meglio e prima o poi riuscirà a ricostruire i suoi sì, episodi di uova sode e noci che comunque continuano ogni giovedì alle 23. Grande, però figurati, una volta che lui si rianima, comincia a parlare, a dialogare, figurati se lo lasciano andare via, se lo tengono stretto, con che lui ovunque sta rialza la qualità della vita e esatto, quindi non ce lo mollano più. Andiamo a intervistarlo. Radio Sant'Orso, sì, probabilmente. È finita così. Finita così. Alto questo ça va pour toi. Non abbiamo più nulla da raccontarci, Fedra. Vogliamo fare un piccolo un recap di tutto quanto. Esatto. Dei prossimi appuntamenti. Dei prossimi appuntamenti. No, il prossimo è mercoledì alle 19. Non sbagliamo con le 19:30, perché altrimenti arriverete 30 minuti in ritardo. Però se arrivate con 30 minuti di ritardo non è un problema. Morbido. Perché tanto sti poeti non li ascoltano. No, iniziamo dopo. Scherzo, naturalmente. Allora forse potrei fare una domanda a Daniela, sì. Ma qualche anticipazione sul prossimo artista? La prossima artista è Silvia Rocchi. che per durante il festival Billboard Bull il 28 di, stavo per dire giugno perché ti ho contagiata io adesso siamo in maggio, giugno no, quindi il 28 di novembre è l'orario, ma non me lo ricordo, però ma io, sarà io, le 19, senti, se non le 18:30 se non le 18:30 inaugura la sua mostra Susy Corre con la presentazione del suo libro, perché viene dal suo libro illustrato. Sì. Molto carino. Vero? Sì. 287esimo coxo, Bibubi. Sta giungendo al termine. Sta giungendo al termine, cosa facciamo? Ci salutiamo. Ci salutiamo. Ci ringraziamo. Ci sbaciuchiamo. Ci jingoliamo. Ci jingoliamo, intanto infatti. Hai mai provato a mettere Google Translate sui jingle? No. ci devo provare? Non lo so. No, io stavo cercando, perché ho buttato tutto dentro il mixer come al solito. Infatti c'hai un po' la sguardo di chi cerca. Esatto. e mi chiedevo qual era la sigla di chiusura. Intanto che tu te lo chiedi, io mestamente mi sposto, potresti verso, salutare sì, uno ad uno a questo triste ospiti. Momento, che è il momento in cui comincio a salutare i convenuti, e quindi un saluto carissimo ai due ospiti silenziosi, non uno ma due, agli angoli della stanza. Che salutano silenziosamente. Che salutano, che salutano silenziosamente. Poi un carissimo saluto all'ospite fissa di novembre, che si chiama Esther Grossi, che è una pittrice. Esatto, che Gifo scrive, attenzione, perché Gifo scrive: io la Grossi me la sposo. Ah, congratulazioni, grazie. Ma Pasquini riesce anche in queste imprese impossibili. No, ma cosa stai dicendo? Imprese impossibili. Ma guarda, farsi sposare da Gifo secondo me non è così impossibile. Comunque accettata la proposta. Ah, vedi che sì, Gifo ce l'hai fatta, hai finalmente sì, trovato. E con questa gioia nel cuore. Esatto. Però adesso che vi fidanzate, vi sposate, avete tutta la famiglia, il coxo continuate ad ascoltarlo, certo. Ma soprattutto verrò con lui. Ma prossimo novembre. Finalmente lo vedremo. Finalmente. Novembre prossimo, finalmente avremo Gifo Live a Coxo Spaziale. Mi sposto giusto di qualche grado e guardo in faccia con gli occhi tristi Giulio Zanetto. Lo ringrazio per essere venuto e gli dico. E per aver parlato così tanto. Io parlo poco. Ho gli occhi tristi anch'io, perché finisce. Grazie infinite. E ti dico la cosa che ti farà più triste: che sì, è consuetudine che chiunque salga sul Coxo, prima o poi ti tocca di tornare, quindi preparati. Stavo pensando di aprire il bar qua sotto. meraviglia sì, in questo caso saremmo molto contenti di te. E poi no, prima, immaginati il bar che aprirebbe, capito? Che ascolterebbe, esatto, Radio Città Fugico. Coloratissimissimo proprio. La vita è un passatempo, però, esatto. Giulio. Ma sì, ma apriamo un bar, dai. Lo chiamiamo passatempo. Passatempo. E basta. Oh, fantastico. Mamma mia. Oh, la ciclicità della vita, hai capito? E quindi, in ultimo, ringrazio e saluto Daniela Tozzi, che è ritornata in rappresentanza di Adiacenze, che è sempre nei nostri cuori. E naturalmente salutiamo, baciamo e abbracciamo anche il fantastico Amerigo Mariotti. Sì, che continua a mandarmi messaggi. Guarda, che mi stai distraendo. Infatti, ma è difficile. No, ma poi il bello del coxo è che comunque siamo sempre tutti distratti. E sì, dunque, e siccome ci pensava lui a distrarti, Stefano ti ha distratto poco con Google Translate, l'ha usato solo due volte. Scaviamo nel piano interrato. Gli sta venendo un ictus per scavare nel piano interrato, capito? Fantastico. E dunque niente, è stato un bellissimo coxo, il mio cuore è pieno di gioia, vi ringrazio e ci vediamo sicuramente mercoledì alle 19. Sì, dai. Vi lasciamo con i soliti saluti del magnifico direttore, che dice: con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che non c'è. C'è. Together but alone, and now I'm talking about this girl I like, but I feel so lonely, feel so lonely. Yeah, I'm living in LA.